Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La depurazione delle acque assorbe più o meno il 3% della produzione di energia elettrica degli Stati Uniti e una quota simile, il 2,3% in Italia, con tendenza ad aumentare. Ecco spiegato l'interesse di molti operatori della depurazione per una tecnologia brevettata dall'Enea e presentata in occasione dell'ultima giornata mondiale dell'acqua. Tecnologia che permette di abbattere del 36% il consumo di energia e del 15% i costi di gestione di un impianto di depurazione delle acque. Ci facciamo spiegare tutto da Luca Luccarini, che è ricercatore dell'Enea ed è l'inventore della tecnologia in questione. Buonasera Luccarini. Buonasera. Senta, Lord Kelvin diceva che quello che non si misura non si può controllare. Mi pare che sia un po' anche il ragionamento che avete fatto voi in questo caso. Sì, infatti. Sì, abbiamo messo a punto un sistema per il controllo automatico e la gestione intelligente di impianti di depurazione, attraverso il quale è possibile definire lo stato del sistema depurativo, quindi come stanno avvenendo i processi di depurazione, e in funzione dello stato raggiunto dal sistema in ogni istante siamo in grado di definire politiche che permettono di insufflare l'aria strettamente necessaria e tarare i parametri di controllo in funzione di ottimizzare l'efficienza depurativa. Ecco, pochi magari sanno che più o meno i tre quarti del consumo di energia negli impianti di depurazione è dovuto al fatto che bisogna pompare tanta aria sotto forma di bollicine in queste grandi vasche, no? Sostanzialmente. Esattamente. E il punto, lei dice che a secondo di quello che c'è dentro, che può anche variare, insomma, nella vasca, dello stadio del processo, noi possiamo pompare meno aria perché tanto è sufficiente quella lì. È un po' questo il tema. Senta, ma diciamo il monitoraggio del processo che avviene all'interno del depuratore era senz'altro misurabile anche prima. Si poteva vedere quanta ammoniaca era rimasta, eccetera, eccetera. Si poteva fare anche prima, ma costava troppo. Allora le chiedo, qual è stata l'intuizione che vi ha permesso di abbattere i costi? Allora, nello specifico questa scoperta, questa invenzione, il sistema di controllo messo a punto è finalizzato al controllo di per impianti medio-piccoli, per i quali chi gestisce gli impianti di depurazione investe molto meno rispetto agli impianti più grossi, perché il ritorno è molto basso. Quindi abbiamo pensato di mettere a punto un sistema che permettesse di tenere bassi i costi di installazione, mantenendo l'efficienza che potrebbero garantire. E come l'avete risolto questo problema? Abbiamo invece che utilizzare la misura diretta delle sostanze inquinanti, quale l'ammoniaca per esempio, con misure indirette, quale pH, potenziale di costo di riduzione, misurabili con sonde economiche e robuste, che danno l'informazione qualitativa paragonabile a quella dei segnali. Cioè diretti. Voi da queste misure indirette riuscite comunque a ricavare poi tutte le informazioni dirette, appunto la concentrazione di ammoniaca, di altri inquinanti, e quindi riuscite lo stesso a regolarvi senza bisogno di questi, esatto, di queste sonde così costose sostanzialmente. Ecco, parlava di impianti piccoli, medio piccoli, è una tecnologia che si può applicare a quello che c'è, non c'è bisogno di stravolgerli questi impianti, no? Parliamo di un sistema di controllo. Assolutamente, sì, occorre solamente installare le sonde per misurare all'interno delle vasche e dotare il sistema di reazione di cosiddetti inverter che permettono la regolazione dei motori elettrici, cioè poterli accelerare ed decelerare, appunto, perché se prima non si faceva magari non c'è questa possibilità. Esattamente. E basta. E quanti sono dominanti questi impianti medio piccoli? Sono la stragrande maggioranza, oltre l'80%, però potrebbero anche essere più alti, comunque un numero molto rilevante rispetto al numero totale degli impianti presenti, diciamo in Italia, però in realtà è in tutto il mondo, perché questi sono sistemi che sono usati in tutto il mondo. Quindi, insomma, quindi c'è una possibilità di vederlo largamente utilizzata questa vostra invenzione, no? La vostra speranza è questa. Sì, perché... Ecco, adesso c'è un impianto pilota. Quale sarà il prossimo step? Il prossimo step è la sperimentazione su un impianto reale. Okay. Che dovrebbe essere messo a punto l'accordo di collaborazione a breve, quindi entro qualche mese, presumo, potrebbe partire. Avrete la prima applicazione in scala 1 a 1 di questa vostra tecnologia. Esattamente. Va bene, grazie allora, grazie Luca Luccarini. Grazie a lei. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.